get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Eccoci qua, buonasera a tutte. Allora, benvenute alla nostra trasmissione, pensate, 120 di una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. E oggi qui in studio siamo io, Annalisa, e per la prima volta ai microfoni abbiamo Ada. Ciao a tutte. Allora, salutiamo tutte le ascoltatrici, quelle sintonizzate su Radio Onda Rossa, quelle collegate via internet, perché come sapete potete ascoltarci collegandovi alla pagina www.clrbp.it/laradio.htm e cliccare sull'icona in diretta. Allora, oggi in scaletta ascolteremo un'interessante intervista che la nostra inviata speciale Tania ha realizzato a Bari al gruppo lesbico separatista delle Desiderande. E poi che altro abbiamo, Ada? E poi vi leggeremo un racconto erotico letto durante il seminario tenuto da Margherita Giacobino al Centro Femminista Separatista il 5 e il 6 aprile, scorsi dal titolo Orgoglio e Privilegio, Viaggio nella letteratura lesbica. Oh, poi abbiamo tanti appuntamenti da dirvi qui a Roma e fuori, come sempre. Poi vi invitiamo sempre a inviarci contributi e quant'altro, a che indirizzo? A contatti@clrbp.it. C'è Ada che è un po' emozionata, è la prima volta, ma ha detto no, non sono emozionata, ma sono emozionata di stare con te, perché sto con ma fingeva in realtà. Oh, se invece volete semplicemente salutarci, potete chiamarci qui in radio allo 06491750. Iada, saremo ben liete di salutarvi, oppure aspettiamo dei trillini, come sapete sono sempre ben graditi, sui brani che abbiamo scelto. Il primo brano, vediamo se si ricorda che cosa ha scelto Ada. È un brano di Giorgia, però di non Giorgia, mi ricordo il titolo. Save the World, dedicato a tutte voi. Comfort you whenever you need it. I am a woman, I feel your desire. Turn around and multiply it, taking you higher. I say goodbye, I say save the world. E allora, dopo il primo brano, che spero vi sia piaciuto, ascoltiamo questa intervista, come vi avevo già anticipato, realizzata da Tania Le Desiderande, che hanno presentato lo scorso 13 aprile la bellissima iniziativa, almeno questa sembra a noi, riservata a sole donne, dal titolo molto carino Lesbiche allo Speculum, che si terrà a Bari per tutto il mese di maggio, appunto il mese della prevenzione. A dopo. Quattro bellissime donne del gruppo: Elena, Francesca, Rosy e Giulia. Volete salutare? Ciao! Allora, noi del CLR conosciamo da anni questo gruppo, con cui abbiamo condiviso alcune esperienze politiche, oltre anche, ovviamente, anche di amicizia. Ma è il caso sicuramente di spendere qualche parola sul vostro gruppo per tutte quelle che ancora non hanno avuto il piacere di conoscervi. Anche perché, da quello che so io, voi al sud siete il gruppo lesbico che opera da più anni. Chi ci vuole raccontare qualcosa? Francesca? Va bene, parlo io. Allora, noi siamo un gruppo, noi Desiderande, siamo un gruppo lesbico separatista che opera a Bari da quasi 11 anni, che è nato con il nome di CLS, Collegamento Lesbiche Sud, con l'obiettivo di diffondere cultura lesbica, ma soprattutto di creare spazi per le lesbiche al sud, nello specifico a Bari. Dopo un po' di anni ci siamo costituite in associazione, appunto con il nome di Desiderande, e siamo ormai all'ottava edizione di un'iniziativa di una vacanza lesbica che si svolge in una struttura tipica del sud, che è la masseria. Dura appunto una settimana nel mese di agosto, è aperta a sole donne, è uno spazio ludico, però diciamo che cerchiamo anche di creare degli spazi politici e di confronto all'interno di questa iniziativa. Colgo l'occasione per dire a tutte quante che quest'anno le Desiderande non organizzeranno la masseria, perché, come penso tutte sappiate, si svolgerà il Pride a Bari, e appunto siamo impegnate anche noi in quei giorni e abbiamo deciso quest'anno di non fare la masseria. Sì, la masseria. Del Pride vi farò un paio di domande successivamente. E intanto volevo chiedervi, vuoi dire altro delle Desiderande? No, va bene così. Allora, intanto questa iniziativa è Lesbica allo Speculum, in che cosa consiste? Ma guarda, si tratta di un'azione veramente molto concreta. Per tutto il mese di maggio una professionista barese, una ginecologa che abbiamo abbiato, visiterà due volte alla settimana nel suo studio esclusivamente le lesbiche, e questo dopo un po' di mesi di contatto, di confronto con lei. Quindi mi sembra che in questo modo si offra alle lesbiche di questo territorio, ma insomma a chiunque poi voglia sia interessata, un modo pratico, ecco, di cominciare a sensibilizzarsi o a risolvere una serie di problemi, di ostacoli che si frappongono molto spesso tra le lesbiche, e proprio il prendersi cura concretamente di sé. E questa, l'idea di questa iniziativa come nasce? Ma in realtà l'interesse del nostro gruppo per le questioni che hanno a che fare con la salute delle lesbiche non risale ad adesso. E già diversi anni fa ci siamo occupate in maniera anche strutturata di prevenzione della salute per le lesbiche. Ricordo un periodo di lavoro, di studio anche con lesbiche di altre città, in particolare durante la seconda settimana lesbica abbiamo tenuto un workshop proprio sulla salute delle lesbiche e sulle modalità del tutto particolari di prevenzione. Tra l'altro già da allora ci siamo rese conto che non solo non esistono degli studi, delle iniziative specifiche per quanto riguarda noi, se non quelle che ad esempio in Italia l'Università di Torino parecchi anni fa ha condotto, sempre sulla scorta di questionari, cioè si trattava di un'indagine però prevalentemente orientata alle malattie sessualmente trasmissibili. Quello che ci interessava sin da allora era invece uno sguardo un po' più globale sulla salute delle lesbiche, globale nel senso che guardasse alla salute più che altro come ricerca del benessere, primo; secondo, che non fosse sovrapponibile a quello che si fa rispetto alla prevenzione nella popolazione gay. Ci sembrava già da allora importantissimo distinguere: la popolazione gay ha stili di vita, ha una serie di rischi epidemiologici significativi, per un altro tipo di malattie. D'altra parte l'attenzione che in tutto il mondo si è rivolta, è stata rivolta all'AIDS, ci sembrava proprio superfluo occupare delle energie per una situazione che non appartiene, almeno finora non ci risulta affatto, alle lesbiche. Altre sono le questioni che ci riguardano più da vicino. Quindi anche l'iniziativa che adesso stiamo realizzando qui in questo territorio ha a che fare con il nostro specifico lesbico. E fra tutte le forme di prevenzione possibile abbiamo scelto di occuparci e di contattare una ginecologa, perché è proprio lì, secondo la nostra esperienza, che le lesbiche possono trovare più difficoltà. E pensate che questa iniziativa possa avere degli sviluppi futuri? Ma naturalmente ti rispondiamo che ce l'auguriamo. Per ora quello che possiamo dire è che c'è stato un notevole riscontro in termini di interesse. Quando si parla di lesbiche si tende a fare molte generalizzazioni, in realtà siamo diversissime come età, come esperienze, come problemi. Comunque ci sembra che una cosa accomuni, e cioè il fatto che la nostra sessualità non è separata. Volevo aggiungere che uno degli aspetti che ci hanno più motivato a progettare questa iniziativa ha a che fare da un lato con la convinzione che fa parte della nostra esperienza personale che il nostro essere lesbiche, quindi la nostra sessualità, è in qualche modo, anzi in molti modi, rende l'approccio alle questioni che hanno a che fare con il nostro corpo assolutamente specifiche e diverse da quelle che può avere una donna eterosessuale. Questo è un aspetto della questione. L'altro che ci sta molto a cuore è quello della formazione degli operatori sanitari. In particolare gli operatori in campo della ginecologia, sempre secondo la nostra esperienza, tendono a dare per scontata l'eterosessualità delle loro pazienti. E non solo, questo comporta spesso una serie di un protocollo di visita che può creare degli ostacoli, dei disagi, degli imbarazzi, senza dimenticare che è proprio molto raro che una lesbica si rechi dal ginecologo e abbia tanta disinvoltura dal parlare della propria sessualità, delle proprie scelte, e con delle implicazioni, probabilmente anche questo è tutto da esplorare, anche che possono anche essere significative sul piano di alcune patologie che possono eventualmente essere legate alle nostre pratiche sessuali, per esempio. Quindi anche in questa occasione l'incontro con la ginecologa, il contatto è stato mediato da una nostra amica, ci sembra molto interessante perché abbiamo trovato una persona, una donna estremamente aperta, disponibile, con un atteggiamento di curiosità, di interesse. Lei stessa ha tentato di documentarsi, ha fatto delle ricerche. Quindi, scusa, questa dottoressa non è lesbica? Per ora no. No, vabbè. E comunque, a parte gli scherzi, ci è sembrata decisamente una persona sensibile, una persona con cui può essere per noi anche prezioso continuare ad interloquire. E tra l'altro ci ha aiutato anche nel preparare del materiale che può in qualche modo guidare le lesbiche ai vari protocolli utili nelle varie fasce d'età. Per questo mese di maggio a prezzi contenuti, e questo va detto come apprezzamento nei confronti proprio della dottoressa, le visite consisteranno nella routine base, quindi una visita ginecologica, il pap test, eventualmente un'ecografia. E più che altro è un modo per aiutare molte lesbiche, noi ne abbiamo conosciute tante che ci hanno detto in questi giorni di non essere mai state dal ginecologo, e vi parlo anche di lesbiche oltre 30 anni e che hanno dimostrato veramente un grande interesse. Ci è sembrato che desse loro la possibilità di fare un salto, di cominciare a superare un ostacolo. Quindi in qualche maniera, al di là del protocollo essenziale di visita, è un modo per cominciare a stabilire una relazione non solo tra le desiderande e questa specialista, ma anche tra le lesbiche del territorio e la dottoressa, e devo dire, cosa che ci interessa ancora di più, tra le lesbiche e la salute. E ci piace molto l'idea di salute come ricerca di benessere e soprattutto come modo per le lesbiche di riappropriarsi, anzi di appropriarsi di una forma di potere, senza aspettare che siano le strutture, le istituzioni ad occuparsi di noi nelle nostre esigenze specifiche. Questa è una modalità politica per quanto ci riguarda, quella anche attraverso delle azioni concrete di restituirci la proprietà della nostra vita e la possibilità di agire come protagoniste. Bene, complimenti per questa iniziativa che mi sembra molto interessante. E poi so che comunque quest'anno a Bari oltre si svolgerà anche il Pride nazionale. E voi come vi state organizzando per questo evento, Giulia? Sì, allora noi abbiamo deciso di restare al di fuori del coordinamento, quindi dell'organizzazione, della gestione del programma ufficiale del Bari Pride. In ogni caso svolgeremo delle iniziative, stiamo organizzando per il 6 giugno un incontro, un piccolo convegno dedicato al tema degli spazi, dei luoghi lesbici separati, in cui speriamo di poter confrontarci anche con esperienze già realizzate in questo ambito in Italia e non solo. E invece per il giorno conclusivo del Pride, quindi per il 7 giugno, stiamo organizzando insieme al Circolo Arcilesbica Mediterranea di Bari una festa naturalmente per sole donne. Tutto questo come sempre facciamo per le nostre iniziative in maniera del tutto autonoma e in maniera autofinanziata. In ogni caso, per chiunque voglia avere dettagli maggiori, che in corso d'opera si profileranno meglio, potete visitare il nostro sito, l'indirizzo è www.desiderandae.it o il nostro indirizzo email info@desiderandae.it. E com'è nata l'idea di titolare il convegno durante i giorni del Pride Luoghi lesbici separati? È uno dei nostri progetti, ovviamente oltre alla masseria, è attualmente quello di fondare una residenza per lesbiche anziane. È un progetto che noi chiamiamo Lesbizio. Ci stiamo lavorando già da 2 anni e l'abbiamo cominciato a presentare nelle edizioni passate della masseria, ed è un progetto che ci sta vedendo molto impegnate appunto da un paio d'anni, ma soprattutto in quest'ultimo periodo, perché stiamo focalizzando l'attenzione nella ricerca delle forme giuridiche ed economiche più appropriate al progetto. In questo senso ci sembrava interessante aprire un confronto con altre esperienze di luoghi lesbici storici, come ad esempio il Buon Pastore, ma anche altre esperienze che non siano strettamente italiane. Infatti pensavamo di invitare le lesbiche che hanno fondato Bagdam Café di Tolosa e quelle di Safia, che sono appunto un gruppo di Francoforte che ha elaborato un progetto molto simile al nostro, appunto di una residenza per lesbiche anziane. Ovviamente a questo incontro siete tutte invitate e speriamo, confidiamo nella presenza delle lesbiche del CLR, e quindi sicuramente ci saremo. E appunto colgo l'occasione per ringraziarle tutte per questa opportunità che ci hanno dato. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, por hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus brazos se encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, todo se me hace volver. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. La historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. E ringraziamo Tania, salutiamo tutte le desiderande, a loro ho pensato di dedicare questo brano che è Guadalupe Pineda, Historia de un amor, che è l'amor mio per loro, per tutte quante loro. Io le saluto, spero che siano all'ascolto. Volevi salutare pure tu qualcuno in particolare? Elena e Francesca, un salutone da Ada e un bacio. Soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme. Io saluto pure tutte le altre, non le nomino perché sennò sicuramente me ne dimentico qualcuno e non vorrei, le amo tutte. E volevo dire che effettivamente è bella interessante questa iniziativa, perché troppo spesso noi lesbiche dobbiamo sopportare delle visite mediche con personale che proprio non prevede il rapporto lesbico e comincia a parlare di contraccettivi, prevenzione. E infatti un anno fa sono andata da un dermatologo, ad esempio, perché ho ancora l'acne giovanile nonostante abbia superato di gran lunga i miei 30 anni da un pezzo, e mi voleva prescrivere una cura che però aveva come controindicazioni terribili, aveva delle controindicazioni terribili in caso di gravidanza, e nonostante le mie insistenze nel convincerla che non si doveva proprio preoccupare, mi confortava, non diceva mai dire mai, vedrai che prima o poi lo trova un uomo. Allora a quel punto io ho sbottato e le ho detto: sono lesbica. Con lei che per poco non mi sveniva, è diventata paonazza, credetemi, ha preso ad annotare questa cosa al computer e a prescrivermi i medicinali senza più proferire parola. Ancora diverso tempo fa sono andata poi per una mossa di tutti i fatti miei, in realtà per una candida, potevo dire che era successo alla mia amica, come di solito si fa, invece era successo a me. Sono andata alla ginecologa e mi ha prescritto questa cura per me e quella da far seguire al mio compagno. Lì ho pensato, lo dico, non lo dico, lo dico, non lo dico, poi tutto d'un fiato l'ho detto. E se fosse una donna? E lei, imbarazzata, mi ha risposto: allora, mi faccia ragionare. E con gli occhi all'insù ripercorreva le possibili azioni e possibili posizioni che potevamo fare io e la mia fidanzata, per capire se potevo attaccarle la candida. Insomma, per non portarla a lungo, alla fine mi ha solo consigliato di lavarmi accuratamente le mani, facendo capire che insomma aveva veramente poca fantasia. Tutto questo per introdurvi alla lettura del racconto erotico. È venuta l'ora, comincia Ada. Allora, questo è un racconto che si intitola Le sue cosce ed è stato tradotto da Margherita Giacobino. Il titolo è Trash ed è di Dorothy Allison. Comincia così. Pensa a Bobby, la rivedo seduta mentre fuma, strizzando gli occhi, e io guardo le sue cosce, come si disegnano sotto i jeans. Mi sono sempre piaciute le donne in blue jeans. Jeans logori, soprattutto quando le cuciture sull'interno della coscia sono consumate. E le cuciture di Bobby erano sbiancate e lucide, come capita solo dopo aver passato lunghe sere a far ballare una gamba contro l'altra e l'altra contro lo sgabello del bar. Dopo un anno che eravamo amanti, in modo saltuario, i nervi di Bob cominciavano a essere consumati come le sue cuciture. Sembrava sempre che osservasse le altre donne al bar, per cercare di capire dai loro occhi se la consideravano davvero così incapace di farsi rispettare, come si riteneva lei, visto che non riusciva a fare di me la brava mogliettina che avrei dovuto essere. Bobby era una donna dallo sguardo fiero, orgogliosa della sua fama di sciupa femmine, per via di tutte le donne che si erano innamorate di lei e avevano continuato a correrle dietro anche quando lei ormai non le degnava più. Nei pigri pomeriggi di primavera, alle partite di pallavolo, Bobby mi guardava mentre gettavo indietro i capelli e parlavo con qualche altra donna e sfregava le cosce per l'impazienza. Il mio desiderio sessuale la metteva profondamente a disagio, come la mia volontà di essere indipendente. Ma la cosa che le dava più fastidio era che gli altri si accorgessero di queste cose, da come gettavo indietro i capelli. Ancheggiavo e non accorrevo sempre al suo richiamo. Bobby riteneva che aver voglia di far l'amore fosse un impulso da gente bassa e volgare, e lei non voleva essere niente di tutto ciò, il che significava che la sola arma che avrebbe potuto usare per controllarmi era proprio quella che non poteva usare. Oh, a Bobby piaceva scoparmi. Bobby adorava sbattermi, ma le dava fastidio che ci piacesse così tanto a tutte e due. Fin dai tempi della nostra relazione aveva stabilito che le sere che passavo da lei doveva svolgersi con una certa routine che vietava rigorosamente il sesso al di fuori della camera da letto. Bobby voleva cenare, preferibilmente cibo pronto greco o cinese, e almeno 2 ore di televisione. Poi doveva esserci il bagno, il borotalco e il dentifricio, anche se sapeva che io la preferivo senza bagno, non troppo pulita e con il sapore della tequila che sorseggiava a cena. Io non dovevo toccarla finché non entravamo nel tempio della sua stanza, illuminata soltanto dal lampione del viale di fuori. Solo al buio potevo mordere, grattare e gemere il suo nome. Solo al buio Bobby si lasciava andare alla passione. Lasciate che vi descriva la scena. Io, affamata delle sue grandi mani e delle sue cosce perfette, e lei che deliberatamente fa finta di niente. Quando si sentiva particolarmente crudele, Bobby arrivava anche a fare i suoi 20 minuti spaccati di ginnastica, mentre io, sdraiata nel letto, piantavo le unghie nelle lenzuola. Io ero giovane e insicura, per questo sopportavo tutto ciò, e a volte mi piaceva anche se quello che avrei voluto davvero era vederla scopare piena di passione, al ritmo di un complesso rock lesbico sotto i riflettori e in mezzo a uno stadio. Ma erano tanti anni fa, e se ero troppo aggressiva, lei non si lasciava toccare. Allora aspettavo, e la tenevo d'occhio, e facevo i miei calcoli. Cominciavo le operazioni sul divano, trovando qualche scusa per giocare con le sue cosce. Arrotolavo una canna e mi sporgevo per lasciar cadere qualche filo di erba su di lei. Poi glielo grattavo via dai jeans. «Non voglio mica sprecarlo», le dicevo leccandomi le dita per tirar su i granellini più piccoli che restavano nelle sue cuciture. Poi passavo a strofinare le linguine. «Per l'erba», dicevo, arrivando alle cuciture, alle ginocchia, al sotto delle sue cosce. «Forse ne è caduto un po' qui, tesoro. Fammi vedere». Feci in modo che si abituasse al tocco delle mie mani, che la esploravano in modo lecito, mentre i suoi occhi restavano incollati alla TV. Feci in modo che si abituasse al calore dei miei palmi, all'odore leggero del sudore sul mio labbro superiore, alla pressione dei miei polsi che scivolavano oltre i suoi fianchi. Ero calcolatrice, come ogni donna che sa quello che vuole, ma non saprei dire grazie a quella magia, a quale magia riuscii finalmente a farla star ferma, mentre io mi inginocchiavo e leccavo la stoffa. Non fu con le suppliche. Per Bobby le suppliche erano una pratica sessuale e come tale andavano scoraggiate al di fuori dell'oscurità e della camera da letto. Non lottai con lei. Anche questo era permesso solo in camera da letto. Bobby era la perfetta butch che si nega, ve lo dico io. Quindi io facevo la parte della perfetta, docile femme. Credo che a convincerla alla fine siano state le lacrime. Sempre con le mani su di lei, fissavo intensamente le sue cosce, finché si metteva a fare quel movimento di sfregamento, incrociando e disincrociando le gambe. La mia impudenza le faceva venire voglia di afferrarmi e scuotermi, ma anche questo poteva essere sesso, perciò non era possibile. Bobby cambiava la posizione e si schiariva la gola e mi guardava, mentre io, con la bocca socchiusa, fissavo intensamente il punto preciso in cui volevo posare la lingua. I miei occhi erano umidi. Immaginavo di toccare con la lingua la stoffa sopra le sue grandi labbra. Lo vedevo così chiaramente che sentivo il suo sapore in bocca e la consistenza del tessuto. Ero sempre più bagnata. Bobby continuava a cambiare posizione sul divano. Mi si inumidivano le guance e mi sentivo gemere dentro. Come una bambina piccola che ha molta fame. Tra noi si levava quell'odore forte, intenso e muschiato, l'odore che viene dalla mia figa quando sono gonfia e bagnata dal clitoride fino al buco del culo. Bobby lo sentiva, mi guardava in faccia e le guance le diventavano di un rosso acceso. Per un attimo mi sentivo come un serpente che abbia finalmente intrappolato una lepre. Colta contro la sua volontà, sul divano del soggiorno, era costretta a sospendere momentaneamente tutte le sue regole. Bobby restava perfettamente immobile, salvo toccare per un attimo la mia guancia sinistra con le dita. Io mi chinavo e leccavo delicatamente le cuciture all'interno delle cosce, prima la sinistra, poi la destra. Il suo divano era una di quelle cose mostruose e rigonfie di chintz, e ogni volta il mio naso sbatteva contro la fodera. Mi spostavo da destra verso la sinistra. Continuavo a sbattere il naso, muovendomi con ritmo costante, persistente, senza toccarla con nessun'altra parte del mio corpo, tranne la lingua. Sotto i jeans i suoi muscoli si contraevano e si tendevano come se stesse trattenendo o raggiungendo una reazione fortissima. Sentivo di avere un potere straordinario, era nelle mie mani. Sapevo con assoluta certezza di essere io a controllare la situazione. Oh, ma questo controllo aveva un prezzo, è chiaro. O sarei ancora lì? Dovevo calcolare, muovermi obliquamente, distrarla. Era un prezzo caro e pericoloso. Dovevo mantenere la distanza nella mia testa, mantenere un ferro controllo sul mio desiderio di perdere il controllo. Volevo tirar fuori la lingua in tutta la sua lunghezza, sbavare saliva sul mento, schiacciare le guance contro quella stoffa e scuotere la testa sulle sue cuciture come un cane con un bell'osso bianco. Ma sarebbe stato troppo reale e troppo crudo. Bobby non sarebbe mai rimasta lì ferma a farsi fare questo. La tenevo grazie all'irrealtà della mia fame, alla mia lingua civilizzata che mordicchiava piano. Oh, a Bobby piaceva questa parte, le piaceva il suo divano di Shins, la credenza a stile antico con il ripiano apribile che usava come scrivania, l'assortimento curato di liquori che non toccava mai, mentre le bottiglie sugli scaffali di cucina venivano svuotate e rimpiazzate ogni settimana. Bobby adorava l'aria di accettabilità, la possibilità di essere finalmente borghese, civilizzata e rispettabile. Io ero la sola cosa non civilizzata nella vita di Bobby. Le ricordavo di cosa sa la fame, come puzzava il sudore di sua madre, il suo stesso desiderio. Io per lei ero il sesso. Ce l'avevo in me, nella spinta delle mie cosce contro le sue quando finalmente mi afferrava e mi trascinava nella cittadella della sua camera da letto. Io mi tenevo dritta, a distanza da lei. Facevo quello che dovevo fare per arrivare a lei, per procurarmi quello che tutte e due volevamo. Ma che prezzo pagavo per quello che facevo? Quello che facevo, quello che ero, quello che faccio, quello che sono. Ho pagato un prezzo alto per diventare quella che sono. Il suo disprezzo, il suo terrore, sono stati il meno. Il mio disprezzo, il mio terrore si sono impadroniti della mia vita, perché erano le prime sensazioni che avevo quando mi guardavo, finché non diventai del tutto incapace di vedere il mio vero essere. Sei un animale, mi diceva, al buio, con i denti contro la mia coscia, e io le credevo. Ruggivo e ingoiavo tutto il veleno che lei mi versava nell'anima. Ora sono qui seduta e penso alle cosce di Bobby, alle sue gambe che si aprono al buio dove nessuno vede, dove sicuramente lei non vede, alle mie gambe che si aprono. È successo molto tempo fa e molto lontano da qui, ma lei corse ancora più lontano quando non ce la fece più a sopportare. quando il desiderio che le ho fatto provare è diventato troppo violento, troppo poco civilizzato, troppo pericoloso. Ora ripensa a quello che ho fatto. Quello che ho fatto, quello che ero, quello che faccio, quello che sono. Sesso, le avevo detto. Io sarò sesso per te. Mai chiesto. Tu, cosa sarai tu per me? Ora mi accetto di chiedere. Tengo a mente Bobby quando fisso le cosce di una donna. Passo il dito sulle mie cuciture. Sguaino i denti e sputo fuori. Tu, cosa concederai a te stessa di essere per me? Siete sempre all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto. Abbiamo le prime richieste. Questa è di Tania, che ci ha chiamato qui in radio per dedicare con tanto tanto amore ad Elena questa canzone, che è Bird and Bair di Yasmin Sannino. Le donne lesbiche che ci ascoltano, perché non ci fate sapere se vi è piaciuto il racconto lesbico? Allo 06 49 17 50. Dai, forza. Oh, fate contenta Ada, che è la sua prima esperienza, no, non favore, torna più. Ve lo chiedo per favore. O non vi piacciono i brani muovete che abbiamo letto, per fare il numero. O non vi piacciono il racconto lesbico, erotico che vi abbiamo letto, oppure state facendo altre cose, perché dopo il racconto erotico forse Ada c'ha un altro da fare. Un po', distraetevi. Non credo che non vi sia piaciuta l'intervista alle desiderande, perché sennò ce la pigliamo anche noi con voi. Trillini allo 06 49 17 50. E noi continuiamo per un altro po', poi vi manderemo la sigla finale, però non andate via perché abbiamo il quarto d'ora di diretta, ancora noi, ancora Ada, Annalisa, Annalisa e Ada. Qual è la storia che mi vas a hacer ahora, nene? Porque mira que hace tiempo que te conozco. Explícate. ¿Qué es lo que pasa con tus sentimientos, papá? Explícame qué estás sintiendo. No quiero cuento, ya no te creo nada. No me pida todo el mundo porque no lo voy a dar. ¿Qué es lo que pasa con tus sentimientos, papá? Explícame qué estás sintiendo. No quiero cuento, ya no te creo nada. No me pida todo el mundo porque no lo voy a dar. ¿Hai visto, Ada? Che belle donne che ci fanno i trillini, grazie ragazze. Mamma mia, che emozione. Mandiamo un bacino, Ada, che dici? Un bacione, ce ne sono tantissime, grazie. Te fuiste un día de mi lado, como el aire, como el humo, todo, todo el mundo, mi corazón, mi vida entera, por tenerte, porque siempre me quisieras. Pero tú te fuiste, pero tú te fuiste. E stiamo ascoltando un brano che ci porta lontano, ci porta a Cuba, pensate. Chissà se mai conosceremo qualche lesbica cubana. Ci sono tantissime, mi dicono. Ah, sì? Sì. Saranno bellissime. Boh, che... Ci sono comunque. Penso che le italiane sono bellissime. Llorarías por mí. Llorarías por mí. Porque he cambiado y ya no siento amor por ti.